Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Un ratto! Prendete qualcosa per intrappolarlo! Avete idea di che accadrebbe se si sapesse che c'è un ratto nella nostra cucina? Vai! Portalo via da qui, squatter! Che stai facendo? Sto tagliando le verdure. Taglio le verdure? No, sprechi energie e tempo. Credi che cucinare sia un lavoro carino? Come fa la mammina in cucina? La mammina non deve affrontare l'ora di punta quando le ordinazioni arrivano a valanga, tutte per piatti diversi, con tempi di cottura diversi, ma che devono arrivare al tavolo del cliente esattamente nello stesso momento, caldi e perfetti. Ogni secondo conta e non puoi fare la mammina! Questo cos'è? Tieni la tua postazione in ordine. Che succederà all'ora di punta? Una postazione in disordine rallenta il lavoro. Le ordinazioni si accumulano. Un disastro. Te lo dico in modo che lo ricordi bene. Tieni la tua postazione in ordine, altrimenti ti uccido! Buongiorno a tutti, anzi buon pranzo vista anche l'ora e vista anche il fatto che abbiamo appena trasmesso una clip tratta da Ratatouille, il famoso film della Disney con Pixar. E l'abbiamo trasmessa perché oggi parliamo della Unox, che è un'azienda che fa forni professionali. Ci interessa parlare della Unox, che ha sede a Cadoneghe in provincia di Padova, per due motivi. Il primo è che ci racconteranno come funziona il loro forno interconnesso e legato a concetti di Internet of Things e di Industry 4.0, ci racconteranno le loro innovazioni. Il secondo è che è un'azienda che ha delle percentuali di crescita straordinarie, cioè nel 2007 era 35 milioni, nel 2015 78 milioni, nel 2016 100 milioni e si propone di fare circa 160 milioni nel 2020. Questo grazie al grado di innovazione contenuto nei suoi forni e nei suoi prodotti, e grado di innovazione che permette a questa azienda, che è specializzata nella cucina professionale, di fare anche dei margini più interessanti. Salutiamo l'amministratore delegato Nicola Michelon. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, ma che cos'è questo forno interconnesso? Che bisogno c'è di collegare a internet e ad altri oggetti un forno? Perché metterci sensori? Allora, ci sono due macro aree in cui un forno connesso può dare un vantaggio al nostro cliente. La prima, quella più banale, quella a cui pensano in molti, è l'aspetto di assistenza tecnica. Chiaramente il forno professionale è al centro dei processi produttivi della cucina, il nostro cliente non può permettersi di avere il forno fermo per molto tempo. Quindi avere la capacità di sapere che un nostro cliente ha un problema, sapere quale questo problema è ed effettuare la corretta diagnosi per inviare sul luogo un centro assistenza tecnica nel giro di qualche ora con la giusta parte di ricambio e la giusta diagnosi per la certezza di un intervento eseguito alla perfezione è fondamentale. Questo è quello su cui noi, come molte altre aziende, siamo partiti nel nostro progetto di connessione del nostro prodotto a internet. Dopodiché poi abbiamo cominciato a riflettere su qual è la peculiarità del nostro mercato, quindi chi è il nostro cliente? Il nostro cliente è prima di tutto un piccolo imprenditore che a tutti gli effetti gestisce la propria redditività e che si chiama ristorante. In molti casi è lui o un proprio socio che ha contatto con la macchina, che quindi lavora con il nostro forno, lavora nella propria cucina per fare delle cotture, ma in realtà il fine di un ristorante, al di là di cucinare piatti e avere clienti soddisfatti, è il fine di qualunque business, che è sopravvivere e svilupparsi. Quindi acquista la nostra macchina dando per scontato che la nostra macchina cucini bene. Ormai il nostro marchio è conosciuto, nessuno lo mette più in dubbio. Il vero tema è come riusciamo a garantirgli il massimo ritorno all'investimento. E di questo tema ne dobbiamo parlare nella seconda parte della trasmissione, perché adesso ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. Restate con... Fabbrica 2.4. Rieccoci in linea, stiamo parlando con Nicola Michelon della Unox, che produce forni professionali per la ristorazione, e ci stava spiegando, prima degli avvisi sul traffico e della pubblicità, che il vero tema è come supportare il cliente, dove il cliente è un ristorante, magari un grande ristorante, e quindi un'impresa, nel fare profitti. E diceva che l'interconnessione o la modernizzazione possono essere utili a questo scopo. Corretto, esatto. Quindi lei immagini questo ristorante che ha fatto un investimento in un nostro forno, un ordine di grandezza di 10.000 euro, da questo investimento si aspetta un ritorno. Quindi ci siamo chiesti come possiamo utilizzare i dati che ci vengono messi a disposizione. Quindi l'interconnessione serve per la manutenzione predittiva, per il monitoraggio e anche per cosa? Esattamente, per dare dei suggerimenti su come utilizzare questa macchina, non le tipiche 6 ore al giorno che dai dati che abbiamo che riceviamo dai nostri forni connessi sul segmento ristoranti in Italia, cioè questo è un numero di cui siamo certi, ma come riusciamo a fare in modo che questo investimento che è progettato, questa macchina che è progettata e studiata per lavorare 24 ore al giorno, effettivamente venga utilizzata 24 ore al giorno. Bene, con i dati che riceviamo dal ristorante siamo in grado di individuare e suggerire delle opportunità di utilizzo della macchina. E faccio un esempio: se vediamo che la macchina magari non viene mai utilizzata durante la notte, il nostro cliente riceverà un ricettario che gli suggerisce che cotture fare durante la notte, per esempio degli arrosti, con cui può ottenere una minimizzazione del consumo energetico, sfruttare di più la macchina, abbattere il consumo di materie prime e quindi... Ecco, ma questo non sarebbe più facile se voi oltre ai forni faceste anche i piani di cottura, perché poi la cottura è un processo che ha varie fasi, non è limitativo fare solo i forni? Allora, questa è una scelta, io penso che abbiamo... che la miglior risposta si trovi nei numeri. Noi abbiamo un ufficio ricerca e sviluppo fatto da 35 persone che pensano esclusivamente ai forni, e obiettivamente ne avremo bisogno di altrettante. Non penso che saremo in grado di produrre così tanta innovazione perdendo il focus. Probabilmente sì, la nostra capacità di impattare sul bilancio del nostro cliente potrebbe essere più grande se facessimo anche altre attrezzature, ma il contenuto tecnologico della nostra macchina è così ampio che ci impone di focalizzare i nostri sforzi verso quella macchina. Poi chi lo sa, magari con la crescita potremo... Ecco, ma come mai voi siete cresciuti così tanto e volete crescere così tanto? Non è certo solo per il forno interconnesso e collegato all'IoT, probabilmente ci sono anche delle altre motivazioni. Spontaneamente mi viene da pensare che siccome aumenta nel mondo la necessità di ristorazione collettiva, perché c'è proprio un mutamento del costume mondiale che va verso il mangiar fuori, voi avete la possibilità di cavalcarlo e siete anche in grado di investire nella vostra crescita. La risposta alla crescita, alla domanda perché la crescita di Unox, ha due aspetti. Il primo è appunto la crescita legata al settore. Come ha detto giustamente, sempre di più non si cucina in casa. Attenzione, non sto dicendo quello che avrei detto 5 anni fa, si mangia fuori casa, perché con l'arrivo di Google Eat piuttosto che Uber Eat piuttosto che Just Eat, tutte quelle, anche lì la digitalizzazione del rapporto tra domanda e offerta, sempre di più sarà possibile mangiare cibo di ristorante non nel ristorante ma nella propria casa, e questo è un ulteriore trend che sosterrà la crescita del nostro mercato. Certo. Ma a parte questo, quindi questo è un fattore di contesto di cui hanno beneficiato anche i nostri concorrenti, che chiaramente non sono cresciuti come noi. Penso che la ricetta della nostra crescita sia quella del progressivo cambio di un business model. Perché qual è adesso il vostro business model? Diciamo che quando citava il numero del 2007, nel 2007 Unox era un'azienda, un produttore di forni in cui il 99% delle risorse umane di Unox e economiche di Unox era investito sul prodotto. Oggi dei nostri 500, io li chiamo persone di Unox, delle 500 persone di Unox, due terzi vengono a lavorare tutti i giorni nelle quarter in Italia, dove abbiamo manifattura, innovazione e gli uffici, gli headquarters. Un rimanente terzo, cioè 175 persone, sono sparse nei nostri uffici e filiali in giro per il mondo, che erogano servizi al cliente. Quindi se lei mi chiede chi è Unox, o se lei me l'avesse chiesto nel 2007, le avrei detto un produttore di forni professionali. Nel 2017 le rispondo un produttore di forni professionale e un erogatore di tutti i servizi che sono necessari all'atto del forno professionale. E se lei mi chiede chi saremo nel 2020, probabilmente metà delle persone di Unox saranno focalizzate sul prodotto e metà delle persone di Unox sui servizi. Questa è una tendenza mondiale, perché è quella che si chiama manuservice, cioè la fusione del servizio con la manifattura, tanto che le due cose non sono più distinguibili una dall'altra, giusto? Corretto. Ecco, adesso però bisogna che apriamo una parentesi, perché una trasmissione come questa, che parla di economia reale e di industria, deve sottolineare i dati che sono stati comunicati all'inizio di questa settimana, i dati sulla produzione industriale a dicembre, che sono dei dati fantastici. Pensate, più 6,6% su base annua e più 1,4% su base mensile, i risultati migliori che ha fatto l'Italia ad agosto 2015, nonché il quinto progresso consecutivo mensile è il più robusto dell'anno. Questo dato va letto insieme a quello che ha comunicato Banca Italia sui prestiti tra 1 e 5 anni, cioè i prestiti a medio e lungo termine, che dovrebbero essere quelli che servono per finanziare veri investimenti produttivi che guardano al futuro e non semplicemente l'attività ordinaria. Ebbene, si sono attestati sul 2,21 miliardi, il triplo rispetto allo stesso mese del 2015. Sempre a dicembre abbiamo toccato il record massimo di operazioni oltre il milione di euro, il massimo dal 2008. C'è ripresa? Non è presto per dirlo, e anche se ci fosse ripresa, ci vorranno anni per recuperare ciò che è andato perduto negli anni della crisi. Comunque, non dico che si possa brindare champagne, ma almeno una piccola bottiglia di prosecco devo dire sì. Spiccano il dato sui mezzi di trasporto, più 12,2%, sull'elettronica più 11,9%, sulla metallurgia più 10,8%. Dentro i mezzi di trasporto c'è la Fiat, che sta aumentando la sua produzione soprattutto di veicoli di lusso destinati all'estero. Comunque, torniamo alla Unox. Ecco, lei è convinto, Michelon, che se non ci si interconnette si sarà comunque fuori dal business, qualunque sia il proprio business, giusto? Sì, di questo sono assolutamente convinto, soprattutto per tutte quelle aziende che fanno macchinari che entrano nei processi produttivi dei loro clienti. Cioè, se oggi avere un macchinario, sia esso forno o qualunque altra cosa, interconnesso, può essere quello che si chiama un order winner, cioè qualcosa che attira l'attenzione e può fare la differenza tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha, nel 2020 sono pronto a scommettere che diventerà un order qualifier, cioè o ce l'hai e quindi sei qualificato per essere ascoltato, se non ce l'hai non ti ascolto nemmeno, passo al prossimo. Quindi penso che sia un obbligo, perlomeno anche solo dal punto di vista economico, che chi progetta macchinari, se non lo ha già fatto, si stia seriamente ponendo il problema di come il suo macchinario sarà integrato nel mondo dell'internet delle cose del 2020, che non è assolutamente lontano. Ecco, a me, concludo su questa azienda, perché è interessante, perché dimostra la Unox che non basta più impattare lottare sul mercato di comparto, cioè cercare di togliere quote di mercato ai concorrenti accettando il mercato di riferimento così come è definito. Bisogna plasmare il mercato di riferimento, bisogna modificarlo generando valori e punti di riferimento all'interno di questo mercato e modellando la propria azienda su come si vuole modificare il mercato, cioè bisogna costruirsi il mercato di riferimento, insomma, dico bene? Sì, esatto, bisogna guardare al mercato con occhi anche diversi da quelli della tipica segmentazione per funzione, cioè forno cucina, la macchina sportiva, la macchina sportiva, la macchina familiare, la macchina familiare, ma guardare al mercato magari con una segmentazione per ambizioni e capire quali possono essere le ambizioni di chi il prodotto lo sceglie e come quindi aiutare chi il prodotto lo sceglie a realizzare. Ecco, ma poi in questo vostro processo di innovazione vi ha dato una mano, mi risulta, anche il professor Bagnoli, che è spesso ospite di questa trasmissione. Sì, corretto, abbiamo aperto un capitolo ormai 2 anni fa con il professor Bagnoli, che con il suo team di antropologi e sociologi ha portato una società di pura ingegneria fisica e chimica come la nostra una prospettiva nuova su come guardare il mercato, come definire la propria strategia, che va al di là appunto della strutturazione dell'organizzazione aziendale e quindi di una strategia di risposta, appunto. Ma è una strategia di proposta e di autodefinizione. Io andrei avanti a parlare con lei per ore, ma dobbiamo chiudere anche perché magari i nostri ascoltatori stanno andando a mangiare. Salutiamo Nicola Michielon, amministratore delegato della Unox. Grazie, saluti a tutti. E saluti a tutti gli ascoltatori, mi raccomando, sabato prossimo alle 14:00.